Thank you. mettendo giù con i sassi, abbiamo cominciato a prendere la doccia. E va bene così, eh. Una salute anche quella. Davvero. Mario, Luca, riprendete, boh, Mario, Mario in bianco, Mario. Chi è stato capo di rosso, però? E chi è? Quadrato. Comunque. Volante quadrato. No, Luca Piccola. Ma Luca Piccola quadrato. Legge, fate che questo quello che sta a lavare. Luca. Non succede nulla, dai, già va bene così. diciamo che lui è nelle porte dopo Sant'Orsola, là, dietro Sant'Orsola. C'è Antonio Reserva, c'è Luca, c'è Gianni, ma me si sapeva così. Allora, prima delle 2:30 c'ero io, diciamo che a parte che è stanco, credo che debba preparare, no, c'era la gente, aveva chiuso per quello, e poi c'era Tino, avanti se c'è ancora, Tino, no, ha fatto un viaggio anche lui, così che siamo in tre, io voglio comparare a me, sì, ma non si, non ho messo per i figli, cazzo il fermo, mi sta male, la casa, non avevo sotto casa, non fare più niente. Ma questo legno è così, ma questo legno è così, sai che il legno quando è una cosa fatta artigianale. Che poi dritto. Ma io che ti devo spedire, metto un paragone, due mi trovo pronto, piglio il pacco, lo apro, lo guardo, sai come è scritto su di lui, tutto riguadagnato, se non è come ho visto, lo piglio, lo piglio e te lo rimando indietro, tu non mi devi nulla, però neanche io ti devo niente, tutto lì il discorso, non vado perché uno deve venire e tu me ne devi mandare anticipatamente, e se tu poi non mi mandi niente, oppure mi mandi un mattone nel tuo pacco, allora chi me lo dice? Mario, io anni fa, allora, non so se tu hai conosciuto la pubblicità, tuttora la fanno, non è che i compressori Baifini. Anni fa io l'avevo comprato uno da 50 litri, l'avevo comprato tramite il televisore. E cosa hanno fatto loro? Allora c'erano le pompe a pedaneta, se non mi sbaglio, se mi sembra erano proprio a pedaneta. E quando mi è arrivato il pacco, la carta diciamo, mi è arrivata una cartolina dove io dovevo andare a controllare cosa mi è arrivato o meno. Sono andato e ho collegato subito, perché sono passati diversi giorni dal momento dell'acquisto, ho collegato subito che era il compressore che avevo ordinato. Allora, prima di dare i miei quattrini, i miei documenti e quelle varie, mi hanno messo da una parte, mi hanno detto si apre il pacco, solo controlli, vera cosa c'è, vera cosa non c'è, se ci mancano le cose ci avversa e poi noi faremo sapere la vita. Beh, praticamente io ho fatto come ti dicevo tu, ho controllato il pacco, tutto mi risultava regolare, non ho fatto altro che fargli un conto corrente e sì, c'è tutto finito lì. Adesso, come hai detto tu, perché non fare anche loro questo tipo di programma qua? Punto 8, così è. altre fesserie, queste salsiccia così, arancio, fa aiutare a mangiare. E adesso però non dire che non metto giù nulla. E allora quello è il mio finisco. Sempre stato così, è proprio la costituzione la mia. Tutti quattro insieme a tavola, si chiacchiera del piede almeno, e dopo tanti altri che sono fuori tutto il giorno, arrivano a casa, l'unico momento di incontro è quando vi sedete a tavola per mangiare, e allora si chiede un po' di questo e un po' di quello, come va la scuola, come va quello, come va quell'altro e via, capito Sabato? Non c'è niente di anormale, tu sei la fortuna che sono con te dalla mattina alla sera, è così che niente di particolare. Ah, sì, no, è vero. No, sai, se ti si nasce è una bella cosa, perché come hai detto tu, magari ci si parla, si discute, si parla anche dei problemi, che sempre ce ne sono, e così, e fare passa, anche perché io preferisco, perché parlare che la televisione ne guardo poco già, non guardo poco, non sono parte della televisione, certo quando c'è il calcio, difficilmente, e adesso a giugno le quarantine dei mondiali o lui la rifaccia fuori così o già. No, io guardo il telegiornale e i documentari, boh, quelli non esco. Papà, è un documentario, hai ragione, sì, anch'io. Comunque dai, che ne sono? Sono le 8:32 e su che canale siamo già? 10:27:85? Canale 10, ci sta modulando per l'unica stazione di tutti i russi sul canale 10, in compagnia di Salvatore Maestrale e di Mario Masse, davanti Mario. Right, so 27075, canale 10. Ogni 8 è 30, è 32, sono giusto dietro l'orologio. Sì, bisogna fare così. Comunque, Natalia, ma te sei fatti esami da qualche parte? Sono in quelle due date che ti ho detto io. Capisco. Sono a maggio e a ottobre, quell'esame lì che sto parlando qui. Scusami se non sono potuto venire a ritirare quella cosa, ma ho avuto impegni improrogabili. Capisco. E tu mi dovevi dire anche un'altra cosa, Salvatore, se la vuoi, quella grande o quella normale, diciamo? Normale. Che se no non va bene. Vabbè, ne parliamo al telefono o di persona. Ok. No, vabbè, che sei impegnato, come immaginato, ho detto, se no sarebbe passato anche a io. Bisogna illuci, sai cosa faccio? Mi chiamo sul telefono e mi metto qua. rispetto al Vodafone. Addirittura tra i tre non si paga niente lì. Lo so. E allora scusa, no? E non è una cosa, ti metto che al suo momento di chiamata su quello, che è il numero nuovo, chi chiama sul numero vecchio ti non ricevi lo stesso, poi man mano la gente si memorizza il numero nuovo e fai prima lì. Non si fa così. E poi non è una tariffa. In effetti se vorrebbe il trasferimento di chiamata. Lo mandi sull'altro numero e quindi chi ti chiama sulla 1 va direttamente sulla 3, capito? Quindi è così, come ha detto Salvatore. Capo, te le immagini sulla 1, ho perso tutti i numeri di telefono, giusti? Capo, meno male che ne avevo qualcuno memorizzato su un file che c'è nel computer. Poi nel computer, io un dischetto ce l'avevo, la rubrica me l'avevo fatto. Però molti numeri me li ho presi, adesso me li scrivo proprio tutti. Cazzo, mi sembra che il Salvatore non ce l'ho, ho perso quello di Antonio, il numero ho perso quello di Salvatore. Salvatore, vabbè, già mi ha telefonato lì, quindi l'ho rintracciato e non c'è stato problema. Claudio ce l'avevo nell'altro numero, nell'altra scheda, e quindi ho salvato anche quello. Ma te lo devo immaginare, tutti i numeri ho perso, mi si è smagnetizzato improvvisamente la scheda e ho dovuto prendermene un'altra di scheda con lo stesso numero, però no, i numeri li ho tutti chiesti. Natali, sai cosa fai? Te lo metti nel telefono, te lo attivi nel telefono, ti rimane fisso e lì non succede tutto il problema. Già, anche lì può succedere. A me è successo, c'avevo sul telefono, è partito lo schermo, è partito quello, non si vedeva più niente, non leggevo più i numeri. Insomma, non puoi essere così sfigato, lo metti in uno nell'altro, li vedi, capito? Non penso che sia anche sulla Vodafone, ma se sul testo abbiamo un sistema che possiamo ogni tanto copiarceli, cioè li metti sul telefonino, poi ogni tanto quelli più importanti per i contrasporti sulla Usimet, trasporti, noi dobbiamo fare così. Comunque se li metti sul telefono i numeri ha più probabilità che lasciano, perché io avevo sul telefono non mi ha mai avuto problemi. Li ho messi nel telefono, non l'ho messi, mi sono rotta la scheda logica del telefono e ho perso tutti i numeri, l'ho perso, te lo ricordi Salvatore, non mi sono dato una parola, che ho dovuto ripristinarlo, però i numeri li ho persi. Mi hanno cambiato la scheda logica, però l'ho perso tutti i numeri. Sì, no, ma questo penso anche a Giovanni, per tutto c'è cosa già. E se te le cave, in acqua, vai a pescare, ti scivola in acqua, guarda, parte il display e cosa leggi? Guarda, a me non attessi, sono andato a pescare e l'occhio mi è scivolato al tacchino e venne in un bosco, un occhio non lo conosco, se ne immagini. Che c'è stato? Ma allora, quando stavo pescando, mi è scivolato al tacchino, ce l'avevo nel tacchino del giubbottino, ce l'avevo. Cato, non mi ero visto nel braccio, un grande braccio con Motorola di reparare il giubbottino. Intanto che in spiaggia magari tutto il tuo puoi cercare di recuperarlo, no? Anche lì è fare un giusto, no? Oppure tramite il carretto, il carretto te lo scarichi ogni tanto sul computer e ti conserva i numeri lì, già, e sei tranquillo, perché può succedere, se te ne hai telefono è un rischio, sia che tu lo utilizzi sul video sul telefono e sulla usine, ma per me è rischioso per tutti e due. No, tu ti apri un file nel computer, ti fai una rubrica e ti scappi tutti i numeri e poi te li salvi su un dischetto o su una penna USB e tu vi hai sempre il numero, non li vedi mai. E faccio così, infatti qualcuno l'ho salvato perché ce l'avevo nel dischetto e qualcuno l'ho salvato, ma ha già messo gli impulsanti. Comunque con quei telefoni si saranno telefoni di PC, si sarà di forse da farsi le telefonate. Un bell'occhio era, mi era caduto in acqua e mio fratello lo stava pescando, era in barca, lui è cercato da moglie. fossi in radio, faccio la conoscere al tratto. Ehi, voglio organizzarcela. Ciao, faccio una consigli rispetto alla terra. Io sì. Allora, dai, vuol dire che... Però conviene, no, no, non durante il giorno, ma la notte conviene, che ne ti diverti di più. Bisogna organizzarci. E io, per me, il miglior orario per pescare sono dalle 7:30 fino alle 10:30-11. E poi la mattina presto, dalle 6 in poi. Però, come alle 7:30-11, la mattina presto, no, già, per salutare. No, ma ci organizziamo lì. Organizziamo, però. Tanto il suo riservatore è appassionato di pesca, anche lui. Quindi no problem. Salvo io. Sì, ma io pensavo il salvatore perché se sono dalla barca. No, la persona te sta dicendo, no, io sì, sto andando, mi piace la barca, non lascia la terra stessa. La persona te sta dicendo, la carica. Ehi, adesso che mi ha mandato la PSL, perché me l'avevo mandata io, l'ho sentita, esatto, me l'ho mandata, non ti ha visto, guarda che rimane in casa, e me l'ha dovuta ricambiare, guarda. Infatti è venuto stasera e me l'ha portata, io gliel'ho spedita, no, ma lui me l'ha portata a mano. Almeno quello, ma almeno ce l'ho. Sì, no, no, no, hai capito che sta dicendo, o già? Ho capito, ma non lo conosco. No, non lo conosco, mi sa. Non è attratto! Avanti, vai. Dove già quello? Allora, allora ti credo che dobbiamo mangiare un bue. Sì, a proposito, stamattina, Roma, ho visto a Tore, il figlio di... Già l'hai capito, il Peppino. Tutto a posto, No, tutto a posto. Allora, in un... Aspetta, quanto ne ha perso chili? 40 in 10 giorni l'ho già perso. Adesso è a 190, quindi pensa tu quanto era prima, per perderne altri 100, e ne arriva a 90. Ma. Vabbè, ma lui ha fatto l'operazione, e bisogna vedere se va avanti, perché non sono tutti che riescono a sopportarla bene quell'operazione. Ma lui era costretto lì, anche non è possibile, cioè. Però poi avrebbe avuto problemi al cuore o di respirazione, è stato dolce pensi, no, era 190, aggiungere 40, 230 kg, cazzo già ci pensi. E chi? È una persona che conosceva, che conoscevo con Mario. Per caso cosa era? È andata a fare l'operazione allo stomaco per chiuderselo, l'hai capito? Ma è cazzo, lo so. Conosco anche due persone io che se l'hanno fatta l'operazione e sono diventate irriconoscibili. Ah, dice che gli hanno detto una cosa, ma c'è che l'ha messo neanche l'uccello si voleva, no? Dice che quando non vede si emozionerà adesso. Ecco. La verità è nata lì. Non riuscivo neanche a vederlo perché era talmente grosso, ho detto, tu pesa 230 kg. Dice che quando non vede adesso si emozionerà. È mio. Allora con la di quella attaccata con un amico mio per riprovarlo. Ma chi è Vitto? No, non è Vitto. ore che te lo prendi. Ma guarda, io devo passare le 8 5 sono lì, E io ce l'arrivo, ma non c'è che alle 8 devo aprire, qui arriva alle 8 meno 5. Passa. Un periodo. quell'altro, ma però questo uomo fa l'accenare adesso, che così ce l'ho anch'io. Se non mai accenato, tu non hai accenato, ma stai accenato, hai tu. Ah, io sì, ho già accenato. La mia la questione l'ho fatta bella, fatta e stampata da me. Ma mi sembra che l'avevo vista la tua, forse. No, quella vecchia hai visto tu. No, questa ci ho messo la bandiera sarda, lo stemma di Sassari, è un certo apparato che tu ben sai. E dietro gli ho messo la roba ci vuole fatta, scritta dietro, no? No, bella è. Ce ne guardiamo, là. Quando ho fatto alcuni, cioè io quelle che ho ricevuto ho fatto una specie di quadretto, le più belline ce le ho messe. Perché ce ne sono alcune carine, specialmente qualcuna della Spagna, ancora il gruppo Sugar Delta ha fatto delle belle queselle, poi quel gruppo brasiliano, come si chiama, Alana, e adesso non ricordo, comunque anche quelli facciano delle belle queselle, ce ne sono che sono fatte bene, e sono che fanno cagare pure. Ok, ne approfitto, per lanciare le campagne, io me le passo in quelle che vanno ci sentiamo per cena. Ciao a tutti, Gianni, Natalino, Mario, a te il microfono, soccorre di per me. Preferisco rimanere in silenzio, ascoltarvi volentieri, ogni tanto potrei salutarvi, ma non farò più parte di questione. Questo mi dispiace, ma le mie decisioni sono queste, anche perché mi voglio riservare ciò che mi ho creato in 30 anni in radio. Stanno continuando a traslare, le varie operazioni sono riprese. Spero con tutta sincerità che le forze dell'ordine e tutte le autorità competenti riescano a pescare questi maledetti animali che esistono, altrimenti ho dato la mia massima disponibilità e farò nomi e cognomi di chi usa radio che non sono per la 27 e simili, quindi sarò io stesso. Allora, se loro non riusciranno a tirare a piedi, mio malgrado, a fare nomi e cognomi di chi usa le radio che non sono inerenti alla 27. Aggiungo altro già, vi saluto tutti, un abbraccio, continuate pure a trasmettere, io sono sempre qua che vi ascolto molto molto volentieri, grazie per avermi fatto entrare a tutti. KK, saranno sicuri. Ciao Clas, avanti da lì. Ecco, papà non già potrei sentare Clas, di niente, è tranquillo, quando è tranquillo puoi entrare, ma se vedi che c'è Marcello prendete i vestiti come faccio io dal resto, io se vedo se ci sono Marcelli, prendo e chiudo, non ci metto molto io a chiudere, no? No, non hai capito niente, a me del Marcello da 27 mi interessa poco. Io sono un radioamatore, non voglio essere trattato da nessuna parte, hai capito? A me del Marcello che fanno e che fate il 27, poco mi riguarda, non sono il padre di nessuno. C'è gente che sta disturbando le frequenze amatoriali, c'è gente che sta trattando a destra e a sinistra e spero che li pizzichino, perché intanto gente di Sassari, abbiamo già contattato questo, ed è gente che sta usando apparecchiature senza nessuna conformità. Quindi le forze dell'ordine sono veramente in agguato, sono veramente in movimento da tutte le parti. Io ripeto, ribadisco che ho dato la mia adesione sia alla Resco Radio, sia alla Questura, sia alla Prefettura, la mia adesione per scovare queste persone. Quindi siccome io sono in grado di poterle scovare, perché sono a Sassari, chi usa apparecchiature VHF e UHF e similari, non aggiungo altro, sono costretto, mio malgrado, a mettermi in mezzo alla situazione e fare nome e cognome di chi usa queste radio, capite? E mandarli a corpo sicuro. Allora la cosa si finisce e chi deve fare il CB fa il CB, chi deve fare l'animatore fa l'animatore. Oppure può fare uno all'altro con molta tranquillità ed educazione. Siccome questo non sta avvenendo, non può di tempo a questa parte, io continuo a stare al mio posto. Fino a quando non sarò messo in mezzo, quando sarò messo in mezzo e chiamato a far parte di quello che devo fare, tutto il concerto che li beccano. Ciao Natalini, ci sentiamo, allerta sempre, ciao. Ciao Fra, mi dispiace veramente, lo so che c'è gente che sta facendo queste cose qua che non devono fare assolutamente, ma quando mai, gatta, devono rovinare il questore della gente qua. A me mi prende male quando vuoi, mi dico andai male, se io non posso entrare a farti due chiacchiere con gli amici per colpa di questa gente. Sono contento se li fisticano, sono il primo, e se riesco a che non ho apparecchiature per poterli fisticare, perché sennò sarei andato in giro a fisticarli io stesso, perché voi non denunciate questa gente, riprendi già. Basta ogni tanto ripetere che siamo sul canale 10, quando registrano così vedono che non siamo in alta frequenza, capito? È un casino, se no, è un bel casino. Beh, infatti, bisogna dire il canale e la frequenza, almeno non si sbagliano. Siamo a 27.075, per chi ascolta. Riprende Mario. Che ha pagato, però, siamo quattro gatti, ma veramente quattro gatti, io non vedo perché uno stare a casa a piedi, fino a che dura questa situazione è un casino, perché lì entrava Claudio, entrava Franco, entrava quello, entrava quell'altro, ci scambiavamo 4 cavolate, si faceva un bel questo, e invece così chi da una parte, chi dall'altra, chi addirittura aspetto perché giustamente c'è qualcuno che dice chi me lo fa fare e c'ha pienamente ragione, non gli si può dare torto, che per due pellegrini davvero debbano succedere queste cose qui, davvero, ma speriamo che duri poco e che ci lasciano in santa pace. Chiama 27 075 canale 10 banda cittadina. Cosa vuoi che ti dica Mario? Purtroppo vedi la gente com'è. Quando mai non capisce che si mette nei guai così, che intanto lo beccano, perché lo beccano, non lo fa così? Chiama per le creature che loro manco si immaginano, boh, io non lo so. Se ne siano in ascolto, entrino a parlare con questa gente, ma io non lo so, che gusto ci provano a mettere nei guai la gente, che uno sia privato, se addirittura stavo convincendo Salvatore di rientrare qua, si voleva fare la concessione, siccome lui è radioamatore, no, voleva farsi la concessione, per poter entrare a farci due chiacchiere con lui. Come ha sentito così, ha detto, boh, basta, basta, vieni Dudu, non me ne di più, figura, ci ho fatto anche brutta figura io. Basta, entrava Claudio, entravano altri amici, nuda, finito tutti i bugigi per quel motivo, perché c'è gente che si mette a traslare e a fare lo scemo. Vieni tu adesso, c'è una cosa possibile da che uno sia privato di poter scambiare due chiacchiere con gli amici la sera, di potersi rilassare, perché molta gente questa frequenza qui la prende quando esce da lavorare, si rilassa con gli amici, invece lecca di quella. Mi prendi già, siamo a 27075 canale 10, Natalina Alfa 1 in frequenza, compagnia di Gianni, di Room e di Maria Manzer. Avanti Gianni. Cappa. Aspetta, sai cosa c'è? Che oltre ad essere conigli questa gente qua, sono anche vigliacchi, a che si guardano, adesso il microfono, mettono i casini da persone, capito? Fate quello. 27075 canale 10, operatore doppio ruolo, rilancia Mario Massa, avanti. Cappa gatta, ma per carità, ma a me la verità si dica, siccome lo sanno tutti, io sono praticamente solo e quando arrivo a casa mi piace scambiare 4 chiacchiere con gli amici e mi fanno compagnia. E invece quasi quasi siamo obbligati a spendere l'apparato perché cosa? Per 4 cretini che fanno gli spiritosi e poi a che cosa gli serve? A niente, solo a mettersi dalla cacca e mu. E ma il fatto che purtroppo è scattato anche agli altri, ma sono i casi agli altri pure. Mario, devi dire la frequenza, il canale, quando finisci di parlare, all'inizio, alla fine o in mezzo pure al discorso, capito? Dovete fare così. Riprendi già. 27075 canale 10, ho 4 ore qui a Roma. Non so l'ora perché verso l'orologio come prima, ma vabbè, se la vedete anche l'ora. Kappa, lo so, purtroppo gente che si diverte a mettere dei casini di altri, che non ha altro da fare, probabilmente non c'ha di meglio da fare, capito? È gente che si diverte solo a incasinare le persone, basta, tutto lì. Cosa si vuole fare? Aspetterà le autorità competenti, beccarli e dare ciò che meritano. perché questa gente qui più che sequestrare tutta l'apparecchiatura, mettere una multa, non si merita. Tanto l'apparecchiatura non la sa utilizzare se non per mettere nei casini gli altri. Ha parlato con l'operatore Gianni Dottorun, canale 10, 27.075, avanti vai. Perché dice quello, io queste cose, perché, ripeto, non serve a niente. È così che va al mondo. 27.075, da questa parte Mario Marse, che la passa tutta all'altro lì, Alfa 1. Questo è 22 UTC da questa parte, 27.075 canale 10 banda cittadina, e riprende Alfa 1 operatore natalino da questa parte. E cosa vuoi Maria, cosa vuoi dire? Purtroppo è gente emarginata, deve essere che non ha il coraggio di parlare o che l'hanno allontanata perché magari si comportava male, non lo so, però sta di fatto che si stanno comportando in questa maniera e poi se la prendono proprio con noi che non c'entriamo niente. Capito? Come diceva l'amico Gianni qua, non è vero quello che loro registrano, magari mandano da altre, in altre frequenze per far vedere che la gente va in altre frequenze, cioè essere traslati non va bene, perché attraverso essere traslati in altre frequenze disturbano prima quelle frequenze che sono adibite a un servizio magari di radioamatore, no, non va bene. C'è gente che sono veramente maleducata, sono dei maleducati, oltre che dei delinquenti, perché questo è un reato, non si può fare, capito? Se viene scoperto, fa soltanto di quei guai, questa persona che non ne ha neanche idea. Vabbè, detto questo, passo la microfonia all'amico Gianni a 27.075 canale 10 banda cittadina, riprendi già. C'è bisogno 27.075 cose, intanto le carte sono già sul tavolo, non c'è problema Natalino. Lo sanno chi siete, chi non siete, dove modulate, cosa fate, dove abitate, cosa ci avete, tutto qua. Quindi non vi preoccupate. Il canale 10 è sotto controllo e già l'avete sofferto. Non è quello il problema. Il problema è tutto il resto, quindi continuate a parlare come state parlando, tranquillamente, educati, eccetera, nessun problema. E poi il resto già viene da solo. Come a voi il pesce. Già lo so, carissimo Flavio, già lo so. Ma sempre meglio se che ci trasli, ho capito l'hai. Magari entri tu e ti traslano a sé, fanno danno, non è altro, non è che fanno danno. So che non è noi pesce, perché sanno benissimo le persone che siamo e che siamo educati, che queste cose che non vanno fatte non le facciamo, capito? Riprendi già. Sì, io per dire l'altra volta sentito a Franco, mi dicevo, cavolo, non è possibile che arrivi registrava con questo fusio, cosa? Poi mi sono accorto che lo stavano registrando, hanno mandato anche il 27, capito? E poi anche a me mi hanno traslato, capito? Ma problemi non ne ho, io sono tranquillo, non c'è problema, deve essere qualcuno che si diverte così, meglio visto che sento malame, se in questa casa lui la ciaffani, tanto una ragazza all'altro che ci ha lasciato zampino e già io. Dovete già le carte, sono già sul tavolo, le vedremo nelle belle, poi vediamo chi deve fare il CB e chi deve fare l'arrivato, perché adesso basta. Adesso veramente hanno fracassato le balle, capito? Quindi io continuo a ribadire che la mia disponibilità c'è, io so già tutto e di tutti, perché so chi c'ha, chi lo usa, come lo usa e dove lo usa, capito? E poi vediamo cosa succede. A me non mi sfugge niente, se sfugge qualcosa loro stanno lavorando, i sinistri ma stanno lavorando tanto. Io ho deciso di stare più ascolto che parlare, no, a me non me ne serve di niente, vi ascolto volentieri, tranquillo, parlo da altre parti, guarda, sto ascoltando a voi e sto parlando da altre parti, no, è pur certo che con la mia disponibilità qualcuno ci lascia le pene davvero, come hai detto tu, ma ce le lascia davvero, perché intanto io lo so, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, Natalino mi conosce un bel bene, molto molto bene. Tu vedrai che qualcuno si passerà a Natale molto molto male, se non fosse anche la Pasqua, dipende se è una persona che capisce o se sono le persone che capiscono, se non capiscono che continuano non c'è nessun problema. a tutta la provincia di Sassari. Quindi poi vediamo se continuano a usare il VHF e l'UHF come usano il baracchino. Ho trovato gli H1 anche con il baracchino, e facciamo passare un po' di brutti quarti d'ora, poi vediamo. Perché per colpa di un imbecille ci passano tutti. Io non mi frega niente, io non sono mai andato a trovare nessuno, non sono mai andato a pescare a nessuno. A me piace la 27, come mi piacciono tutte le frequenze che sono state le telecomunicazioni. Quello che mi sono creato, me lo sono creato con i miei quattrini, ho studiato per avere la potenza del motore e non voglio che nessuno mi dia fastidio e mi crei soprattutto un problema. Questo ne abbiamo già parlato anche di persona, perciò se qualcuno vuole giocare ti giochi. Io non gioco più con nessuno. Il primo che sento fuori banda è registrato, non solo da me, da tutti quelli che stanno collaborando assieme a me e assieme a tutte le sezioni, verrà registrato e denunciato la Procura della Repubblica. Quindi state molto, molto attenti, io parlo in generale, perché non abbiamo più voglia di giocare con nessuno. Chi deve fare il CB faccia il CB, chi deve fare l'animatore faccia l'animatore. Chi è in grado di fare il CB è l'animatore, come è sottoscritto, perché io farò la concessione anche per fare il CB, a differenza di tanti altri che fanno il CB senza avere la concessione, lo faccia nei modi dovuti e nelle regole dovute, capito? Senza minimi termini per nessuno, perché qua siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, io sempre, quando ho potuto, ho aiutato a tutti, e sono andato sempre, non contro ai miei amici CB e allenatori, ma sono andato sempre a favore, e questo Natalino lo sanno tutti, provo a essere trattato in questa maniera, io e tutti i miei colleghi, non va bene, perché noi non andiamo a rompere le palle a nessuno, e nessuno deve venire a rompere le palle a noi, punto e basta. Chi la vuole capire lo capisca, e ribadisco ancora che io, Claudio Spariero, il 27, in banda materiale di S0 DSB sarà il primo a Sassari che farà i nomi di queste persone. Quindi state molto, molto attenti. Sì, sì, ma queste persone non si meritano di essere nascoste, naturalmente. Ha ragione. Queste persone bisogna sgamarle e denunciarle subito, perché non è giusto che si comporti in questa maniera, perché oltre a essere coglioni sono anche vigliacchi. Lo so, Giovanni, lo so, io mi sto fermando una cosa grande, perché a me la radio piace, mi piace parlare, mi piace collaborare con tutti, mi piace scherzare, mi piace fare la persona seria quando è il momento di fare la persona seria, però essere trattato così veramente non mi va più né a me né a tutti quelli che la pensano come me, capito? Quindi io continuerò a privarmi, continuerò ad ascoltarmi in silenzio, senza disturbare nessuno, però a casa è la baia, ma la baia di voi, che malamente la paga, perché ti sto dicendo che io c'è già tutto pronto, a volte in cui entro il mese non si mette a piedi, io andrò e depositerò le mie carte, dove loro andranno a poco sicuro. Così finalmente facciamo la pulizia che da 30 anni a questa parte non si è fatta. E poi vediamo che cosa ne salta di voi. Ma tu sei sicuro che sia un CD e non un radioamatore che le fa queste cose? Vai tranquillo, vai Gianni, siamo mesi e mesi che stiamo lavorando, in silenzio ma stiamo lavorando. Non è gente che ha bisogno di fare queste trattate, sono le persone che hanno la radio e pensano di avere chissà che cosa, capito? O per gelosia, o per far vedere che arrivano anche loro a fare quello che facciamo noi. Noi lo facciamo con tanto di scritto e con tanto di esame di stato, sudato veramente di mesi e mesi di studi e di sacrifici per poter avere quello che abbiamo avuto. Mentre invece loro lo fanno da pirati. Io siccome mi faccio i catti miei e non voglio andare contro nessuno, se lo fai da pirata farlo bene, perché intanto prima o poi ti bruci le mani. Va bene, ti dico una barra. assimila a una volta per tutte. Quando mai uno deve essere privato di essere così? Ne so qualcosa, cosa vuol dire studiare per prendersi quel pezzo di carta, ne so qualcosa io. Grazie, ma roba la chiudi, dove? Non lo farò, vedrà. Qui a parlare 100 anni, fino a quando vi ligavano la considerano a fare sempre quello di luglio, una pista. Il problema è quello. Io non so con che lo faccio, non forse hanno visto la settamento del canale che si andava a raccogliere e cose quell'altro e magari hanno avuto questa brillante idea di fare quello che stavo facendo, di modo che potessero scompigliare tutto. Gente gelosa per essere, cosa vuoi che ti dica? Gente emarginata e fanno questo, non hanno altro da fare, ma fanno quello, cosa vuoi che ti dica? Rispendi già, rispendi, puoi ritirare anche a Mario. Avanti, Mario, parliamo di pesca, io lo studio ma ci fa tutto. Altro ti viene, mamma mia, sono messo male. Sì, l'ho detto casa. E la mattina mi ha detto, quello ci ci bagusi, tipo quando il cane c'è il cimuto, è la stessa cosa. Con lui che è attaccato, non riesco mai a capire la voce. Non devo fare gli impatti di acqua, come faccio a lavare con la camomilla. Avanti, va. faccio un segreto, magari la legge gira buco. Tre cose, a futtigine, a me sono tranquillo, mangio tranquillo, sono subito gli altri. Ma adesso hanno mangiato i soli, no, Antonio? Ho preso la pizza, aiuto! Sto salendo! Aiuto! No, perché sali subito! La testa! La traduce! Ma che va a fare anch'io, dov'è? C'è questa bellezza! C'è questa bellezza! Aiuto. Ma così, tocco, tocco. Io sono caduta. Sentito? Ma cosa vuol dire? Va bene, ti hanno invitato, scusa, ce la faccio. Ma non posso guardare i soldi, se ne sei guardato qualcosa per digerire. No. No, non so, fra... mi ha dato la pizza due... Non sono negro, la verità, una è spagnola questa qui. Si chiama San Claudio. Mi ha detto al bar, mi non cominciamo già a pensare male. No, ma se vuoi già. Perché non stavo già pensando male? Mi sto guardando sopra, mi sto facendo fare i miei. Insomma, c'è una pizza che vuole venire e venga, anzi questa qui è una ragazza in gamba. Chiunque voglia venire, viene qui, si mangia la pizza. A me non la persona tranquilla, non presta la 27, non presta di altre frequenze. Si fa gli affari suoi, che non le ha neanche di quegli apparecchi, quindi stai bene. Ma adesso la privilegia, no? Saluto. Già te la saluto, non preoccuparti. Subito pensando male voi, puzzi musica. Ma storia, ma adesso la privilegia, no? Ah? Ma che c'è avvelena, no? Vabbè, se è stato niente vuol dire che non me l'avrei dato, non ti preoccupare. Ma cosa la cuore sali? Se è stato niente è colpa di Claudio, mi avrei dato lui. Io la cosa che non c'è messo di malattia in mano. No, ma non mi dico, ma ti vuoi ragionamenti a mettere. Io so tutto, ma non so niente. Non ti preoccupare, non senti la mente che lo sai, ma se non metti che la mente a me tu. Sto salendo su per solito per mangiarmi la pizza, non sto pensando alla baracchina, non me la puoi sostituire, non sarà la tua volta, quindi. Cose vostre sono, problemi vostri, non usa ben nulla, a me la baracchina, entro, quando volta quando entro, mi faccio la fallimento, basta, poi le altre cose vostre. Casalinga non me la potuto più, sembra che sono una palazzina con i condomini. Quindi cosa vuoi sono? Passerà il capo condomini alla stessa madre, tipo lì. Ci vede che la vita ti guardi male, cosa vuoi sono? Già sono così vuoti, non sono così meno, me la punta ferma, non c'è niente da perdere io. Tutto 0-0, già si perderà chi ci deve perdere, non ti preoccupare. Già ne provvedemo fra poco. Di tutto il resto. Vabbè, ciao anche a Luca, comunque buonasera, ben sentito. No, già, rimangono sotto, dai, continuate voi, non. Rimangono sotto, sto parlando da altre parti e preferisco così, dai. Le prime tra mani. Poi mi parlo anche così, vabbè, se ci vediamo domenica mattina, te lo dico io, e tanto. Oh, dimmi che ti che vuoi dire il vinello quello bianco, quello col gasolio ti do, te lo dico io. Ma che si fa, non c'è problema, non farò passare la torre. Non mi dica sono di servizio, ma appena terminato già passo lì, non c'è problema. Appena ho terminato il giro di controllo, già passo lì a controllare a terra. Comunque sabato mattina già ci vediamo, già sono lì. Ciao, ciao, ciao, vai a mangiare, vai. Vai a mangiare, parlo. Che te ne vai a riprenditi, non dire vai che la bomba a metà paricello è puzzinoso. Ehi, ehi, che ha pagato, ha fatto il suo cucù, ha fatto il suo cucù per farci sentire che andava a mangiare la pizza. Ma importante, beh, no, è Gianni che è uscito male il radio a metà. Vabbè, ci vediamo dopo, va a far culo clac, ci vediamo sabato con Tone, dai. D'accordo, e lì che sei caduto là. Ciao, ci vediamo sabato, se devi passare, se no ti passa Maria Musina. Nato Sebastia, lunga la trece, bastardone. Ciao, sai che sto scherzando, ciao. Ciao, che male c'è anche a tutti, buona... A dopo dai, dimmi che sei dopo dentro. Anima. Ciao, Roberto. Ciao, ciao. Tutto bene, sì. Tutto bene, diretto in città, diretto, e tu cosa ti è successo? Influenza a voi? Solita influenza, sempre solita influenza, così un po' di riposo già fa bene. Adesso è un attimo, come sono entrato a fare un intervento, a salutare un po' a tutti. E sono qua in ascolto, Roberto. Io non ti ho sentito nessun posto, buonasera a tutti, quindi mi stavo preoccupando. Un po' più al lavoro, giusto per svagarmi, eccetera, eccetera. Adesso mi riprenderò la moto di nuovo, quest'estate almeno sparisco e me ne vado in giro, un po' come facevamo prima con i vecchi amici, insomma. Là. Ci ha pagato, ci ha passato un latte al limite, roba anche se ci facciamo le chiacchiere. Basta che ti aspetto, io sono sempre là, non c'è problema. Vabbè, fai girare, dai. Vediamo, già ci vediamo, non ti preoccupare. Riprendi Gianni, non c'è uscito, riprendi, te la fai girare tu questa bellissima ruota, vi ascolto molto molto volentieri, non c'è problema. Yeah. te lo sto dietro adesso, vattene in macchina a questa torre. Ma fuori di un film di Gogo, come si chiama? Di quello che stanno processando, che adesso è andata alla scuderia di Riccardo. Allora di tre. Che cosa? Tre. No, adesso la figlia di Vannavacchi è tratta della scuderia di Riccardo Schicchi, fuori di un film di Ghita, e andava. Grande fratello è. Perché sono potesse, capito? No, passiamo lo suo e le case si scordano. Ma quello lì è proprio il punto per vedere se la persona sta facendo da un mese, si sta convivendo con gli altri. Questa cosa è già che si bisticcia per un pezzo di pane, per dire, o magari uno lo fa, quello fa e l'altro non fa, insomma, ma perché bisticciare? Cioè, sono d'accordo e ciccia, oggi tocca a te, domani a me, dopo domani all'altro, e, insomma, per quello bisticcia, oppure magari per si vogliono fare, per dire, cioè uno si sente una ragazza, allora ci prova quello, vai, va, geloso, insomma, tante cose, mi so che dice la mia visita, mamma. Brava, brava, ripeta, vai, ripeta. E è quello che riprendere, c'è una tristezza in questa frequenza, per carità. Ma come mi ha dato di spiegare che cosa di così al volo, o da uno o dall'altro, e allora avete scappato la risa. Allora, ma se no, boh, ma a me che c'è una tristezza micidiale, mi. Buonasera a tutti, ciao Luca, ciao Claudio, ciao Mario e ciao Gianni. E beh, cosa mi raccontate di nuovo? Sono già una mente. No, c'è la mente, non ce ne sono, è sempre dato il testo e l'erba, lo scoperto appunto di quello che succede qua. C'è la mente, non c'è, è roba veritiera perché non me l'ha detto solo una persona, ma tutti i persone. Quindi adesso comincio già a crederci. Comunque io sono Roberto Quadrato, canale 10, 27075, se non sbagliare. In compagnia di Mario Master, di Doppio Rum, di Luca Manicugno, e in ascolto tanti altri amici, da avanti non vedo di nuovo. Ma dove è la sera? Perché abbiamo aspettato. No, il martedì giovedì sono l'allenamento io. Ecco, aspetta, ma non per questa sera una gara, siamo alla televisione, non è? Ma è lo sabai della televisione, non vengo, sa grande fratello papà io. Sì, vabbè, tu c'hai fatti con tante cose, non c'è un altro problema. Capito, scusa. E tu fai con tanti canali, non avrai altri problemi. Sì, ma anche quella la voglia un po' è assoffittata, diciamo molto di meno, adesso non è. Poco tempo da. Perché le cose è tutto all'inizio, poi si aniscono un po', capito? Se non è tutta la passione, la dici tutto. Daffa. Mi prende Mario, ho sentito la risata poco fa. Ehi, poco fa, ma è passata. Oramai non ride più, non fa più manco ridere. Va bene Luca, tutto a posto? Ehi, ciao Robe, tutto a posto, niente in ordine. Ponili un quadello e ti pigli tutto tanto per buone cose, eh? O se no ti pigli una calcolatrice. Via via, nulla, eh. No. Dov'è un bel di tristezza? Non è l'ultimo, perché anche non è successo, cos'è? Una iatta del musa. Sai che tu sei arrivato in tanto perché allenamento, noi ci siamo già da tanto, quindi normale che un po' abbiamo calato come so. Da trovare gli argomenti spiritosi si risolveva tutto il morale. Questa gente qua, speriamo che la proprietà più presto, quindi poi siamo tranquilli. Se possiamo fare questo gioco che ci fa. Vabbè, ma già lo facciamo comunque, dai. Tanto che alla fine lei si fa la selezione, non è così, tutta la cosa c'è una selezione. Ma ci andrà. Ci andrà qualcosa per scalare e vedere un po'. Può essere chi non può essere. Questo è il dilemma. Ma quando passa tutti, tutti loro si agganciano. Da noi. Cosa va bene? Una cosa è sicura, dico, che non dipende da noi. Saranno altre persone sicuramente. Non si sa, non è sicuro manco quello. Io non metto la mano su qualcosa nessuno. Perché ho scoperto cose che è allucinante. L'altro giorno noi dobbiamo provare la donna rubando. che veniva a fare la spesa ogni giorno, capito? Faceva la spesa allucinante, insomma. Abbiamo un bel catrafurelli, capito? Mi dava fastidio anche a fermare. Cosa fate in questa situazione? Se la mi richiamate? Sì, sì, lo denunciamo. Sempre ho lasciato prendere. Dipende dalla situazione o c'è una regola interna a tutti indistintamente? No, dipende, diciamo, dipende dalla principale da come decide. Se prendi questa mattina ho detto come mai, dopo tanti anni, andava a rubare la nostra azienda, che gli ha sempre stata tra bene, eccetera, eccetera. E lei ha detto che praticamente non c'è il racconto che gli era caduta nella borsetta la roba. Nella borsetta, cosa l'ha furato? Lei ha furato un bello ma formaggio di quella pizza là, un pacco di assorbenti, un sacco di roba. C'era una borsetta di quella bella là, a poco, se la riempita. Quindi si può immaginare, è una persona che è insospettabile, capito? E ha detto che noi lo stavamo offendendo dicendo di aprire la borsa, ho detto vabbè allora facciamo una cosa, chiamano i carabinieri e ve la farà davanti a tutti loro. Vediamo un po' se la roba c'è o non c'è. E alla fine poi gli si è calata, come gli ha detto così, ha calato il no. Che sarebbe di figura. Solo per la figura io ho detto, mamma mia, io mi sarei sotterrato. Sì, l'hanno beccata le commesse, mi hanno visto le commesse rubando, mettevano la borsetta. Poi com'è andata a finire? È andata a finire che gli ha detto di non tornarci più, che preferiva non avere più di clienti del genere, piuttosto che avere gente così. Ma dico, la denuncia è andata in porto o si è bloccata? No, non mi era fatto denuncia. Ma abbiamo praticamente ieri un tossico abbiamo preso nel giorno. No, non ci ho fatto caso. Cosa ha fatto per? Ho rubato Mirra che se ne è scappato correndo. Avete beccato? No, noi non l'abbiamo beccato ma lo conoscevamo. Quindi abbiamo segnalato un fatto il carabinieri, l'hanno spiegato giù. E questa tipa come ha concluso poi? Come se n'è andata? Con la coda in mezzo alle gambe o si è scusata? Non abbiamo fatto pagare la roba che ha preso. Ma è una persona benestante o una poverina? È una persona che si crede molto veloce. È una persona che vedeva tutto io, come tante altre persone, siccome che però non è stata molto onesta, era tutto lì. Ma di queste persone abbiamo beccato a parlare. Oh, pensavo fossero finiti i tempi dei fusti ai supermercati, sotto la sorveglianza, invece mi sta dicendo al contrario. E in quella sorveglianza noi non abbiamo sorveglianza. Capito? Non c'è la sorveglianza. No, la sorveglianza sono le commesse che sono ben poche. Perché sono così contate e barra tutto lì. Ma non ce ne sono se telecamere a circuito chiuso, perché non ne avete due. Sì. Ma a me mi è capitato in corso, da due anni fa ho visto una situazione allucinante. Avevo una sala di regia, manco la Rai a Giumarvila, tutto il televisore, ci sono state almeno una trentina di televisori, hanno beccato questa ragazzina rubando, ha rubato un compadischi, una francese su un compadischi italiano, di musica italiana, e l'hanno beccata subito, non è venuta la madre, ha dato questa subito. Poi dopo quando è uscito al supermercato altrettanto. Perché sei così bravo? Sono una ragazza che quindi, ma con la compressione grande che compra da tanti anni, che manco ti mi immagini, che ti trova la tua in testa. Ma io gli ho detto che gli ho visto parecchio. Scusa, ti rispondo a Claudio già. No, sono col portatile Claudio, però con le batterie sue, non ho alimentato l'esterno. Probabilmente sono mezzo partito. Ah, capo, ho visto il segnale, scusa. D'accordo, riprendi con gli anni, riprendi. Grazie della risposta comunque, Claudio. Riprendi già. Comunque ogni tanto se ne becca uno. E ti ha fatto comunque quando trovano i ragazzini il che aveva genitore già ne hai visto dico. Io mi ricordo solo una scena che questa commessa la trovava un ragazzino che nello zero si mette tra di cuori. Non penso che un ragazzino vada a rubare di cuori, secondo me è stato mandato a qualcuno di grandi. Praticamente quando l'ha fermata questo ragazzino, poi gli ha mollato uno schiaffo. siamo andati al macellaio, abbiamo circondato la zona di Bibi, la Sabata. Voi chiamate mai i genitori in questo caso? Sì, abbiamo avvisato i genitori. Ma abbiamo capito, siccome i genitori che conoscono la giustizia, quindi sicuramente erano loro che avevano mandato la colpa dell'atto della caccia ai genitori, perché i nipoti non si ribellano i bambini. E a Pasqua tu ci sono un bel di ragazzine, io mi ricordo alla Sanda, quando c'era la Sanda, io studiavo il giorno, c'erano ragazzine e femmine andavano a rubare i profumi, ma lo sai quanti ne acciappavano? A vigliarsi il trucco e le fesserie. Sì, sì, sì. Cioè, più di una volta. Io una volta mi avrei beccato questi turisti, quello che mi ha dato fastidio, li ho vedi, con un vero e fuori. Noi eravamo in cestone perché noi facevamo le bottiglie del vento, no? Una volta che praticamente come prendere la bottiglia di acqua, mettere quello di vuoto nel cestone, cosa hanno fatto questi? Se non fanno la roba, sono usciti fuori, hanno bevuto, poi ritornavano, rimettevano la bottiglia al vuoto e ritornavano con quella piena fuori, capito? E io ho visto la battaglia. Allora sono uscito fuori, ho detto, mi fa voi dello scontrino. Para nada. proprio finito, di città cagliato, questo, quell'altro. E tu veniva a rubare, capito? Veniva a rubare da noi. Abbiamo una macchina. E poi c'è quello che fa dire che non veniva più a tutti, ci dava una sera da vicino che tra l'altro e la madre di una commessa gli ha detto che non veniva più a comprare perché ce l'hanno messo in sottocare. E capo, ma cose strane ne succedono, eh? È vero, cose strane ne succedono, molte volte ci denunciano anche senza motivo, è vero, perché a me mi è capitato un episodio un pochettino triste e purtroppo niente. Io alla fine ci ho fatto una bellissima figura e tutti quanti gli altri ci hanno fatto una magra figura, perché sono andato a Città Mercato, io sono uscito da lavoro, sono andato a Città Mercato a fare spese e niente, ho pigliato, ho pagato il conto, a un certo punto questa qui passa in su nella macchinetta e uno non gli quadrava una banconota da 100.000 lire e niente, io ho pigliato, siccome i soldi in tasca ce li avevo, non è che ero senza soldi, mi ha detto che questa banconota non va, ha pigliato e ha chiamato tramite il campanello che c'erano loro sotto la casa, ha chiamato il dirigente è venuto e gli ho detto ma dove è il problema, dice questi soldi sono falsi. Perché che lui dice che sono falsi? Dice alla macchinetta non passano e sono falsi. E va bene, datemi lui via e nelle altre accesso, non è un problema. Dice no, questi qui li dobbiamo tenere e dobbiamo chiamare a questo, le chiamate a chi volete, non c'è nessun problema. Pigliato e hanno chiamato la questura, è arrivata lì e si sono messi, ma questi sono più piccoli, ma questi sono così, ma questi sono colà. È uscito il direttore della banca, che lì c'era la banca, gli ha fatto, ma non lo vedete che questi soldi sono stati lavati, ed è il corso dell'intensivo che non li fa, che non li fa passare la situazione. Tutti quanti, non è possibile, mi muova. Guarda, la favola mi hanno denunciato per spazio di banconote false. Io ho pigliato a mia volta, giustamente, chi è che ti ha dato? Dove stai lavorando? Da tizio, mi ha dato il tizio. Ho pigliato e ho fatto la... ho girato praticamente la denuncia. Dopodiché, al momento che io mi sono comportato così, giustamente, sono andati dal mio principale. Però con la differenza che il mio principale era il padrone di Viatiglio De Fino. Cioè proprio il padrone, anche tutti gli altri gli segnali, sono i suoi e rimangono in affitto tutti. Sono andati dal mio principale, gli hanno fatto lì, gli hanno dato il suo, gli hanno detto che io sempre, gli dice sì, 2 ore fa. Quando ha finito di lavorare, gli è andato via, l'abbiamo pagato, va bene. Siccome gli hanno trovato 100.000 lire false, lui ha detto che gli avete dati voi. Dice, gli ha detto la verità, gli ho dato 2 ore fa. Come va? Dico, ma allora il principale ha detto, venga con me a fare entrare dentro casa, giustamente l'ha fatta accomodare il salone e siccome sono di quella gente antica che se ti danno 5 lire sono segnati, pagato tizio a tale ora, tanto, bim bum, e poi a me mi aveva riconvocato, mi dice se è stato, guarda che lui deve venire perché gli dobbiamo restituire questi soldi e deve firmare la ricevuta. Io pigliato sono andato in questura, c'è la rimosso, c'è il commissario e mi faccio stare, dovrebbe firmare la ricevuta che le stiamo restituendo queste 100.000 figlie. Ho detto, guardate, a me voi non mi dovete restituire niente, perché a me il principale, come voi me li avete presi, me li ha resi. Con tante mie scuse, adesso dovreste essere voi a chiamare il mio datore di lavoro, visto che l'avete pigliato anche per spettatore di soldi falsi, e chiedermi scusa a lui, perché lui a me le 100.000 lire me le ha restituite. E sono rimasti tutti di pietra, lì che come ti ha restituito le 100.000 lire, certo, se me le ha dato lui, io mica sono andato a rubare la notte per avere le 100.000 lire. L'hanno guardato, si sono stati tutti quanti di pietra, adesso siamo nella cassa. Hai capito? E poi, il mio datore di lavoro ci è andato e è andato a quella nipotina che mi sembra che in quel periodo avevo 8 anni, è andato a quella nipotina quando gli hanno restituito le 100.000 lire, li ha pigliati lui davanti alla polizia e gli ha detto che il nipotino comprati quello che vuoi, sperando che non ti tornino a denunciare per fatto di banconote false. Yeah. scritto. Dovrebbero essere più accorti di dirsi ma come mai chi è là e vedere un poco, però non è detto perché uno passa quelli suona l'allarme e subito muo, chiama i carabinieri, sono 113, ma è meglio che poi c'era quello della banca che gli ha detto guardi che quei sugli sono buoni, sono lavato la lavatrice. E vabbè, ma facendo molte figure, capito? Si guarda attorno, si guardava controllando, detto, ascolti, se mi domande per quei lì e chiamate il 113, non c'è problema, eh. Io non ho neanche la tele. Però poi vi denuncio per calunnia. Avanti, Roma. Purtroppo, la stessa cosa, avete fatto. Che roba è questa? Sono uscito basso? Cosa vuol dire basso? Basso, di radio. Ah, di radio, non di segnale, no? No, radio, radio. Aspetta che attacco l'alimentatore, naturalmente non ce la fanno le batterie, un secondino. Secondini sono in carcere. Vabbè, ma scherzo. Avanti, Mario. Comunque... sono scocciature, ma in caso bello è quando uno è spacciatore del marcolotto e parse, perché se uno ve la faccia spacciatore del marcolotto e parse, ma la tuca se ne va, non è che si rischia la galera per 100.000 lire parse, per 50.000 lire parse. Come le luci? Quando inizia a perdere di tensione la batteria si sparisce la radio, No, no, ma se pensavo di diminuire il segnale, invece diminuisce la radio. Si è sentito singhiozzare, come va? Ma scusa, non ho capito. Si è sentito singhiozzare. Stavo tossendo. Ah, credevo che ti fossi imbriacato. No, no. Riprendi Mario. Ma quello che ma ci hanno pagato questo rimbalzo? Questo io no, o almeno se l'hanno pagato non me ne sono mai accorto. Perché quando uno viene lì con i soldi contanti, se in mezzo ci sono 50.000 lire false o 100.000 lire false, te ne accorgi? Guarda, io li ho visti i soldi falsi e me ne sono accorto, però non lo so, se sono fatti bene non so se me ne accorgerei. Allora vedi che viene il mio. Se uno dovesse andare o nel corso, la distrazione per l'altro, se sono per dire 1.200.000 lire, 1.500.000, se dovessero capitare le 50.000 lire false, contandole così non te ne accorgi. Allora io non ti dico proprio quando ce ne sono tanti che te ne accorgi, perché non ti la differenza della carta. Se te ne danno uno da solo, magari non ci fai caso. Prima della verità. Guarda, io ho visto delle scene, non ricordo, tu queste macchine che controllano i soldi, tu le conosci? Beh, io ho visto quelle che c'erano lì a Città Mercato che basta un niente che te li segnala come soldi falsi. Guarda, io ti faccio vedere una prova, adesso le nuove generazioni, quelle nuove generazioni non lo so, però noi abbiamo fatto una prova, non io, una persona che conosco ha fatto una prova con dei soldi, un pezzo di carta, non soldi, proprio un pezzo di carta infilato nella macchinetta, con il cellulare ha mandato il segnale di invio e la macchinetta sono passati, e un pezzo di carta, una fotocopia di soldi falsi, cioè neanche soldo falso, una fotocopia, capito? Sì, ho capito. Ha mandato un segnale, ha disturbato il rilevatore che c'è nella macchinetta, lui ha messo una fotocopia di soldi, questo c'è una cartoleria, ha messo una fotocopia di una banconota, cioè più falsa di così non viene, ha schiacciato col telefonino l'invio nell'istante che stava passando e non ha, come si chiama, e non ha segnato. Vedi, io credo. Ti dico quelli di Città Mercato perché mi è successo quel fatto lì, che non passava la luce e sembrava che c'era chissà che cosa, che poi hanno chiamato loro, non io, no, loro, hanno chiamato il direttore della banca e gli hanno detto che non aveva più la matrice e non l'hanno voluto credere. Vabbè, purtroppo cazzo, quando sono lavati i soldi possono ingannare, però ti hanno fatto fare una brutta figura, ti vengono i dubbi anche a te, eccetera, eccetera. Purtroppo tu, cioè, purtroppo tu sei una persona onesta, però la gente non lo sapeva che hanno preso per un delinquente. No, ma il bello è che poi, cioè, prima l'ho chiamata a me e io gli ho fatto rimanere di merda, perché gli ho detto, guardate che a me non mi dovete dare niente, cosa mi dovete dare a me? Niente. A me il titolare delle 100.000 lire me le ha rimborsate, come io le ha rimborsate? Me le ha rimborsate perché io quelle 100.000 lire le ho lavorate, non le avevo mica rubate. Ma bomba, ho convocato la signora e gliele ho restituite lì. La signora è andata in pentura con la nipotina. E gli ho detto, tu riporti, comprati quello che vuoi, sperando che il signore non ti tornerà a denunciare. C'è da dire che loro fanno il loro mestiere, cioè dovranno fare questo. Purtroppo non c'è la possibilità di avere delle scuse pubbliche, cioè loro al limite dicono ci scusi e basta, finisce tutto lì, però non possono fare delle scuse pubbliche perché sarebbe stato bello andare a Città Mercato con tutta la gente che c'era e dire questo signore è una persona onesta, ci siamo sbagliati, ma non si può fare purtroppo. Non si può fare, perché sarebbe una vergogna che loro insultino la gente così sulla pubblica piazza dicendo che tu c'hai i soldi falsi quando loro non ne sono sicuri. tutto lì. Adesso purtroppo se viene letto da un giornale ti fa una smentita, ti fa un articolo e ti dice attenzione, ci siamo sbagliati, questa persona è una persona onesta, però come fa un coso, un servizio pubblico così di forzatore d'ordine a dire in pubblico attenzione che questa persona ci siamo sbagliati, non potrebbero neanche dirlo, cioè verrebbe male, come fanno? E beh già riprendi. Io. Mario. È successo, tutti i gusti. Tu Gianni non lo so se si è addormentato, Gianni. Però. Non si è addormentato. Ma le do la risata a vedere se si scelta. Oh Gianni, che a te è venuto il sonno così leggero. E cosa ne so io, E Luca ancora ci sei? Luca. Ci sono fatte. No, non so, non ne ho un luce qua. Mi accendo di fronte, però c'è la luce spenta, non lo vedo. Ma penso saranno almeno le 11. E se sono le 11 allora chiudiamo anche noi, là. Che domani bisogna andare al lavoro. Aspetta, te lo dico subito che adesso. Le 11 meno 20. Allora se sono le 11 mi posso trattare, là. Sembrava fosse più tardi. Invece no, che è ancora presto, là. E cappagappa. No, se non le 11, ben volentieri. Dopo le 11, no, perché altrimenti le domani mattina si uno slaccio. Vedi, Rubino, no, il sonno è importante per recuperare. Io senza sonno, mamma mia. A parte che dormo male io, ho un sonno molto, ma molto leggero, che basta un soffio mi sveglio. Non è un sonno di cui sono i belli profondi. Sono anni che non riesco a dormire così, almeno non ci riesco a dormire profondamente. Però ci vuole per forza, se no l'indomani gioca a pizza. E cappa, ma è così già, un po' di riposo, almeno quelle 6-7 ore bisogna riposare per recuperare bene. Ma molte volte sai che c'hai qualche disturbino, qualche fesseria, ti viene voglia da in bagno, ti viene un po' qualche mal di pancia, così, qualche fesseria e non c'hai proprio un sonno, oppure hai mangiato troppo, non c'è un sonno bello pieno. Per cui non riesci neanche a recuperare, hai fatto magari 6-7 ore di sonno, però ti giri la notte, ti muovi, ti svegli durante la notte, è come che non hai dormito nulla. Infatti è proprio così. No, io alle 11 piglio, stacco tutto e me ne vado a nonna, perché è giusto così. Perché quando si va a lavorare che abbiamo un impegno e bisogna farlo, non puoi stare gira gira, capito? Fortunatamente adesso le bambine sono grandicelle e la notte già si dorme, ma sai che io sono stato con la prima un anno e mezzo senza dormire, lo so cosa vuol dire stare un anno e mezzo senza dormire a notte, che ti svegli 3-4 volte tutte le notti, alla fine ti scivola il fumo alla testa, eri suonato le domani. E cappagappa, perché sembra che sia un po' un'abitudine, cioè io tanti bambini piccoli che di giorno dormivano e la notte poi erano svegli sempre a piangere, a fare. Quello è perché di giorno non bisognerebbe mai farli dormire, perché in un modo o nell'altro bisognerebbe tenerli svegli, in modo che poi la notte quando tu vai a letto che devi lavorare anche loro dormano, invece ce ne sono molti che li pigliano in braccio, li fanno la ninna, ci dormono, loro sono dormiti e la madre, il padre e sono svegli. Poi al momento che il padre e la madre vanno a dormire e quello là giustamente sono un'ora più perché ha dormito tutto il giorno e allora la notte a piangere e succede quello lì. Già lo so, così, mentre l'altra era più tranquilla, la piccolina, la seconda, mica era più tranquilla, ma come si chiama, perché si attaccava alla madre, l'unica cosa lì butto quella lì si perde il seno, sempre attaccata allo seno, non aveva abbigliato come è successo. Fino a quasi 3 anni è rimasta mia attaccata, cioè l'ha adattata mia madre, mia moglie. Vuol dire che aveva più bisogno di latte, perché non sono tutti uguali, no? C'è quello che mangia di più, c'è quello che mangia di meno, è vero, c'è quello che mangia pochissimo e c'è quello che mangia meglio, se, addirittura si ingolfa. Questa non è bigliata di Ciuccetto, la seconda, Ciuccetto non li ha mai preso. Cioè al contrario della prima, che il ciuccio da piccolo, il cane non ha mai bigliato un ciuccetto, usava il seno, il capezzolo come ciuccetto, infatti se la coricava la notte, la mamma sempre attaccata, stava un paio d'ore così, la attaccava, poi di nuovo piangeva e si voleva dove attaccare, e stava sempre ciuccendo, gliene prendeva le forze a mia moglie, alla fine il medico le ha detto prenda queste medicine, così vi scompare il latte, e infatti è stato un paio di settimane brutto per quello, piangeva perché cercava ancora il latte. Però no, io mio figlio, questo qui, quando era piccolo, dopo che era stato allattato, però mangiava certi biberoni di latte la notte prima di andare a dormire, una cosa micidiale, un biberone pieno se ne ciucciava, quando si aveva la pancia bella piena più si dormiva. No, mia figlia la seconda, lei il biberon non ne ha mai preso in vita sua, per cercare di farla staccare, perché mia moglie alla fine si sentiva male, perché ne prendeva la forza, mal di testa, tutto quanto, e ha detto il medico, mettiti un po' di coso piccante nel cappello, così quando lo prende lo schifa, nulla, nessun modo, non riusciva a fare niente, poi gli ha detto mettiti, dagli il biberon a forza, non gliene dare, farla piangere, niente, non le voleva sentire. Infatti lei in vita sua, questa bambina, non ha mai preso il biberon. Solo la grande, dopo 3 anni, alla fine viene se ne accava del latte e le dava il latte nel bicchiere. Se no lei il biberon non ne ha mai preso. Forse era troppo grosso il coso del biberon e non gli andava. Perché questo qui è iniziato a pigliare il biberone, perché se lo staccava, giustamente se lo staccava. Però quando si staccava era mezzo dormito, che cosa faceva? Gli togliava la sella e gli metteva il bimbero e lui continuava a ciucciare, però non se ne accorgeva neanche perché si credeva che era il seno da lavare, era il bimbero pieno di latte. No, l'abbiamo provato tutto Mario. Appena addormentato glielo staccavo, dopo 2 minuti era addormentato, perché viene che voleva un corso, alla fine gliela facevo attaccare la madre, infatti di lì ha sbagliato pure mia moglie, fino a 3 anni ti sto dicendo, l'altra invece 3 mesi l'ha lattata, poi il latte non ce n'era più, ed è finito tutto, gli abbiamo dato visto che ne bisogna litri di bibero, però la seconda manca a farvi dare, lei bibero non ne ha mai preso in vita sua, l'abbiamo provata in tutti i modi, mai. Sì, ma quello che voglio dire io, ha mai provato la notte quando si metteva a letto a mettersi il biberone con latte nel comodino e dare il seno e a un certo punto quando aveva gli edifici di avere gli occhi togliere il seno e mettergli il biberone da dormita? Sì, te lo sto dicendo, ho provato appena sentivo il gusto diverso, perché il cappetto forse ha un gusto diverso rispetto alla gomma del bibero, al lattice del bibero. E la cosa subito ti si scidava dopo 10 minuti, manco di una vegana, infatti alla fine per disperazione mia moglie la faceva attaccare lì, se dobbiamo dormire qua la faccio attaccare, se la coricava a fianco, lei doveva stare attaccata anche se non c'era niente da succhiare, come anche il ciuccetto, cioè gli altri bambini usavano il ciuccetto, lei il ciuccetto non ne ha mai usato in vita sua, solo il cappello come anche il ciuccetto. Ma poi aveva più bisogno di affetto. Io ne ho visto tanti che come ci davano gli occhi che si stavano dormendo, gli toglievano la sella e gli mettevano il biberone in bocca. E quello lì con mezzo dormito continuava a ciucciare, il latte usciva e continuava a dormire, ciucciava e dormiva. Però, cioè, non avevo mai infatti l'altra idea ci ha detto finché ce n'è di date il signore glielo dia lo stesso, perché noi volevamo interrompere dopo 4-5 mesi che mia moglie si sentiva pure male, indebolisce parecchio quando sta sempre attaccata. Ha detto no signora glielo dia finché lo vuole lo prende. Allora, ma lui si immaginava sino a un anno e mezzo, come tutti i bambini. Chi ha vinto a 3 anni, poco prima di andare all'asilo, no, non dico a 3 anni, a 2 anni e mezzo, là, gli aveva il ciuccio, la tita come ciuccio. Aveva avuto la corsa allora tua moglie, poverina, Giulia, per carità, i bambini però non hanno nessuna colpa. Purtroppo la colpa non è le cose, infatti mia moglie dice sempre la colpa è la nostra, non è colpa loro. Mentre l'altra, fortuna per mia moglie, fortuna per lei, dopo 3 mesi non aveva più di latte. Infatti aveva una famiglia vicina, noi andava sempre, noi dicevamo ma cosa c'è questa bambina, cosa c'è? Proprio fame, e noi non ce ne rendevamo conto perché convinti che latte ce l'avesse mia moglie. Poi alla fine un pediatra ha detto questa bambina che ha fame, piange, ma dice se sta sempre ciuccia, controlla non vera latte, alla fine le abbiamo attirate a vedere che se piangeva più la bambina. Succede. Così è Romè. C'è uno che più di un altro, è vero. E invece. Come è andato l'allenamento, Romè? È andata abbastanza bene, è una partita, una amichevole abbiamo fatto così, contro amici, si sono divertiti, si sono picchiati, non dico non picchiati a così, però in partita abbastanza dura come partita. Hanno giocato con dei genitori, i dirigenti della squadra, hanno fatto una specie di miscuglio, si sono tutti volte a pallone, ma un misto hanno fatto, con dei genitori, dirigenti, eccetera, eccetera. Ma quelli lì sono i migliori allenamenti, eh? C'era un bel di agonismo perché c'era voglia di vincere da tutte e due le parti e c'era un bel di grinta. E se avesse mai se Gianni si ci dà Gianni ci sei, batti un colpo. Ma come se ne ha bisogno? Gianni ci sei. Aspetta, doppio rumo, guarda che sei circondato, eh. Quindi ti stiamo traslando sul canale 25. E se si scenda? Ma se dico se magari non è nell'incubi, almeno. Comunque per gli amici in ascolto stiamo trasmettendo sul canale 10 27075 in compagnia di Roberto Quadratto, Maria Mansell e Gianni Doppio Lumo che è mezzo drumillo e poi non so chi ci sia in ascolto. Salutiamo a tutti. Grazie di tutto, ci sentiamo alle prossime.